Questo programma è offerto da... Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com. Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questo 30 settembre, Radio Zanardi che riapre i subattenti anche per questa settimana che come sempre parte con Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nell'appuntamento del notiziario in genere a cura di Lena Maggiar con la voce al microfono di Barbara Schiavulli. I titoli di oggi. Donne in piazza Istanbul, ma anche in Ghana, dove il movimento hashtag MeToo cresce. L'attivismo passa anche dalla radio. Spotlight contro la violenza di genere in tutto il mondo e dagli Stati Uniti, il fondo e la rete legale che aiutano le donne vittime di violenze e di discriminazioni sessuali. Questo e molto altro nel web notiziario in genere di Radio Bullets. Al grido di stop ai femminicidio, stop alla violenza maschile, non guardare la violenza, fai qualcosa, il 28 settembre molte donne sono scese in piazza a Istanbul per denunciare la violenza crescente contro le donne e l'incapacità del governo di fermare attacchi brutali in tutto il paese. Si sono radunate nel quartiere di Kadikoy, si legge su France 24, nella parte asiatica della capitale, raccontando storie strazianti di donne recentemente assassinate in tutto il paese, tra cui quella di Emin Bulut, la cui uccisione da parte dell'ex marito ad agosto ha suscitato molta indignazione in tutto il paese. L'omicidio di Bulut di fronte a sua figlia ha provocato sgomento in tutta la Turchia dopo la pubblicazione online del video dell'aggressione. La 38enne è stata pugnalata a morte in un caffè il 18 agosto dal suo ex marito nella città dell'Anatolia centrale, Kirikale. Bulut, che aveva divorziato 4 anni fa, è morta in ospedale. Il suo nome è stato nelle tendenze social di tutto il mondo su Twitter, insieme all'hashtag Non voglio morire, Olmekemistimiorum. Il femminicidio di Emin Bulut ha suscitato frustrazione e risentimento nella società. Le sue parole risuonano nelle orecchie di tutte le donne. Non voglio morire, ha detto Gamze Öztürk, una delle organizzatrici all'agenzia France Press. Sempre più donne vengono ammazzate e nessuna di loro voleva morire. 294 donne sono state uccise nei soli primi 8 mesi del 2014, 40 donne solo ad agosto, mentre 440 sono state uccise l'anno scorso, secondo il gruppo per i diritti delle donne We Will Stop Feminicide, che ha effettuato un monitoraggio sui casi di femminicidio nel paese. La Turchia ha ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione della violenza domestica, ma gli attivisti e le attiviste affermano che è necessario fare di più per mettere in pratica le leggi. E le donne sono scese in piazza a manifestare anche a Accra, la capitale del Ghana, per protestare contro l'impunità relativa agli attacchi contro le donne e le ragazze nel paese dell'Africa occidentale. Il movimento hashtag MeToo del Ghana sta guadagnando forza. Le vittime di violenza domestica e sessuale nominano pubblicamente i maltrattori, mentre le autorità vengono criticate per non avere preso prioritaria la sicurezza delle donne e delle ragazze in Ghana. L'organizzatrice della protesta, Eugenia Bafur Bankoh, ha dichiarato che la marcia di sabato ha voluto anche attirare l'attenzione su un recente caso di 4 giovani donne che sono state rapite e assassinate nella regione occidentale del Ghana. La polizia è stata ampiamente accusata di aver gestito fatto male le indagini. La donna ghanese media continua a vivere la realtà quotidiana, vivendo con i suoi maltrattori, dovendo affrontare la polizia o il sistema giudiziario che non la sostiene affatto, con intorno una comunità che la fa vergognare. Se non è la vergogna della troia, è il sistema patriarcale da solo non sostiene le donne, specialmente le vittime, quindi abbiamo ancora molta strada da fare, ha detto Bangkok. Mentre marciavano per le strade, si legge su Voice of America, le manifestanti erano vestite di nero e tenevano in mano cartelli che chiedevano la fine dello stupro e della violenza domestica. Alcune avevano cartelli con i nomi delle vittime. La marcia è stata promossa sui social media, strumento principale del movimento globale MeToo. Oggi mi unirò alla marcia per combattere la violenza contro le donne. Penso che sia così importante. Le donne sono la metà della popolazione in Ghana e tuttavia siamo costantemente presa di mira, ha detto una manifestante poco adu. Un sentimento condiviso da Felicity Nana Nelson, speaker radiofonica ghanese, attivista e femminista, usa il suo lavoro in radio e il suo seguito sui social media per difendere i diritti delle donne. È una delle poche voci femminili forti in radio in Ghana. Sto inserendo in agenda le questioni di genere, questo è il punto. Quando si presenta un problema va bene, qual è il lato femminile, in che modo le donne sono interessate a questo problema, spiega Nelson. La protesta si è conclusa con una veglia a lume di candela. Jaribo Hill non ha optato per la scuola di legge fino ai suoi primi 40 anni. Era stata una cantante, attrice, insegnante, organizzatrice del lavoro prima di venire a sapere che una sua compagna del college era diventata capo di un gruppo di giudici, donne di colore. Posso farlo anch'io, ha pensato. Da allora Hill è diventata avvocata, leader nel settore dei diritti civili e dei diritti dei lavoratori nel Mississippi e ora a 70 anni fa parte della rete nazionale di avvocati e avvocate che aiutano le donne in difficoltà economica a portare avanti casi spesso costosi contro deprecabili comportamenti sessuali. A raccontare la sua storia alla Associated Press, Hill è tra i e le 721 legali che si ispirano al movimento #MeToo e che hanno aderito al Times Up Legal Defense Fund fin dal suo lancio lo scorso anno. Mentre il movimento è esploso nell'ottobre 2017 con celebrità e non solo che hanno accusato uomini potenti di deprecabili comportamenti sessuali, il fondo sta ora raggiungendo quelle donne lavoratrici che altrimenti non sarebbero in grado di permettersi di sporgere denunce in tribunale. Il fondo Times Up, gestito dalla National Women's Law Center, ha ricevuto oltre 3.670 richieste di assistenza e ha finanziato 160 casi grazie a donazioni di 24 milioni di dollari, scrive ancora l'AP. Gli avvocati e le avvocate della rete provengono da grandi e piccoli studi locali di 45 stati americani. La presidente del centro legale, Fatima Goss Graves, ha elogiato il loro impegno. Le lavoratrici che subiscono molestie sessuali e ritorsioni in tutti i settori ora sanno che possono contare su questa rete, dice. Hill è stata la prima avvocata del Mississippi a ricevere il sostegno del fondo Times Up. Il denaro l'ha aiutata con la causa di una donna di colore cinquantenne che affermava di essere stata molestata sessualmente da un collega in una linea locale di autobus e quindi licenziata dopo essersi lamentata con i suoi superiori. Hill ha detto che il caso andrà a processo a febbraio, a meno che la compagnia di autobus non offra un accordo significativo. La querelante Sandra Norman è sempre stata una vittima del sistema, ha detto Hill, ma non dovremmo mai presumere che una persona solo perché è stata una vittima non abbia coraggio di raccontare la sua storia. Hill è cresciuta in Ohio e ha scelto la University di New York per la facoltà di giurisprudenza prima di fondare il Centro per i diritti umani del Mississippi per difendere le lavoratrici a basso salario. Si legge ancora sulla P. Il fondo ha promesso a Hill di reclutare investigatori e studenti e studentesse di giurisprudenza per aiutarla. Stiamo dicendo ai giovani avvocati, alle giovani avvocate, sei abbastanza coraggio e sei abbastanza abile ad affrontare certi casi, c'è da dare una mano là fuori, spiega. David Schaffer ha sede a Washington e ha sfidato diverse forze dell'ordine federali, incluso i servizi segreti, in cause per azioni legali dei dipendenti con l'aiuto del fondo Time's Up. Sta lavorando forse sul suo caso più di alto profilo, rappresentare 16 reclute dell'FBI che avanzano accuse di discriminazione di genere. A Mangia hanno fatto causa per molestie sessuali e valutazioni ingiuste per le loro prestazioni. Il caso durerà il prossimo anno, scrive la P, forse a lungo, e Schaffer non è sicuro se l'FBI prenderà in considerazione un accordo. Schaffer, 61 anni, si è considerato un forte sostenitore dei diritti civili per tutta la sua carriera, ma la sua prospettiva si è evoluta man mano che perdeva la vista, in un periodo a partire da quando aveva 49 anni. Il fatto che mi ha fornito più informazioni sul mondo delle persone con disabilità, spiega, mi sono reso conto che gran parte del mondo era inaccessibile ai non vedenti e che ero nella posizione di fare qualcosa al riguardo. Schaffer sta anche cercando di fare da mentore a giovani avvocati ciechi e studenti di giurisprudenza. Il suo messaggio per loro è: puoi farlo. La terza storia che racconta l'Associated Press è quella di Catherine Yoker. I ricordi della disuguaglianza infantile le sono rimasti attaccati da quando ha iniziato a rappresentare le vittime della discriminazione razziale e di genere. Da bambina bianca nella città a maggioranza ispanica di Harlingen in Texas, ho visto la disuguaglianza in modo duro e razzista, ha detto. Mi sono sempre chiesta perché avevo opportunità disponibili per me che i miei compagni di classe e i miei amici non avevano. Ora lavora a Brownsville, una città gemella di Harlingen, al confine con il Messico. York, 44 anni, coordina casi di lavoro e occupazione per il Texas Rio Grande Legal Aid, che fornisce servizi gratuiti a migliaia di residenti a basso reddito e lavoratori migranti. Molti dei suoi casi parlano di molestie sessuali sul posto di lavoro. Una delle sue clienti, Carmen Garza, ha vinto una retribuzione di circa un anno in un accordo dopo aver fatto causa ai suoi datori di lavoro per non averla protetta dalle molestie sessuali mentre lavorava come assistente domestica. Yorker sta coordinando una sovvenzione di Time's Up per aiutare il Texas Rio Grande a espandere la consapevolezza della comunità sulle molestie sessuali. Dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, l'Unione Europea e le Nazioni Unite hanno ospitato un evento di alto livello su iniziativa Spotlight UE ONU, invitando tutti i paesi e le leader e le rappresentanti della società civile, gli ambasciatori e le ambasciatrici locali a unirsi al movimento e agire per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze. In vista dell'evento, l'alta rappresentante e vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: la violenza contro le donne è violenza contro l'intera società, quindi l'intera società deve reagire per porvi fine. L'Unione Europea è già di gran lunga la prima investitrice nelle parità di genere al mondo e insieme ai nostri partner continueremo a lottare per i diritti umani delle donne. Negli ultimi due anni Spotlight è diventato un vero movimento grazie alle sopravvissute, ad attivisti, sostenitori, leader dei governi e delle comunità che hanno aderito all'iniziativa. Stiamo spingendo in avanti per porre fine alla violenza di genere in tutte le sue forme e fare in modo che ogni donna e ogni ragazza ovunque siano al sicuro e libere di realizzare tutto il loro potenziale, dice il commissario per la cooperazione e lo sviluppo internazionale Neven Mimica. La vice segretaria generale Amina Muhammad ha dichiarato: l'iniziativa di Spotlight in collaborazione con i governi nazionali introdurrà anche nuovi programmi nazionali per l'Afghanistan, Belize, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Kirghizistan, Papua Nuova Guinea, Samoa, Tagikistan, Timor Est e Vanuatu. nel 2020. Con la nostra impronta globale ampliata possiamo aumentare i nostri sforzi collettivi sulla prevenzione della violenza e la protezione di forniture di servizi ad alta qualità, insieme agli sforzi più ampi per garantire l'emancipazione economica delle donne e la partecipazione a tutti gli aspetti della società. A 2 anni dal lancio, si legge in una nota di UN Women, le attività dell'iniziativa Spotlight si estendono a tutto il mondo grazie all'impegno dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite a sostegno dei governi partner e delle società civili a tutti i livelli. 13 paesi hanno già iniziato a attuare programmi Spotlight, circa 2/3 dei finanziamenti iniziali di 500 milioni di euro dell'Unione Europea sono già stati assegnati. In Africa Spotlight mira a eliminare la violenza sessuale di genere, comprese le pratiche dannose. Il programma del valore di 250 milioni è in fase di attuazione in Liberia, Malawi, Mali, Mozambico, Niger, Nigeria, Uganda e Zimbabwe. Includerà anche una componente regionale per ampliare le iniziative esistenti sulla lotta alle mutilazioni genitali femminili, al matrimonio infantile e alle attività congiunte con l'Unione Africana. In Asia l'iniziativa Spotlight si sta concentrando sulla fine della tratta di donne e dello sfruttamento del lavoro. Il programma sicuro ed equo del valore di 25 milioni di euro attuato attraverso l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e delle Donne delle Nazioni Unite mira a garantire che la migrazione del lavoro sia sicura ed equa per tutte le donne nella regione dell'ASEAN. Si concentra sui paesi di origine, Cambogia, Indonesia, Laos, Myanmar, Filippine, Vietnam, e sui paesi di destinazione, Brunei, Malesia, Singapore e Thailand. Inoltre 32 milioni di euro sono destinati a progetti riguardanti la violenza in genere in crisi dimenticate. L'iniziativa è ora in fase di realizzazione e comprende attività in Yemen, Iraq, Palestina, Bangladesh, Camerun, Sudan, Mali e Chad, Ghana, Liberia. In America Latina l'iniziativa da 50 milioni di euro si concentra sulla fine del femminicidio, con programmi mirati in Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Messico, e sul potenziamento delle reti regionali. Il programma Spotlight regionale del Pacifico è stato lanciato il marzo scorso con un budget di 50 milioni di euro e si concentra sulla fine della violenza domestica nelle regioni. Seguiranno, spiega ancora UN Women, azioni per combattere la violenza familiare nella regione dei Caraibi, sostenuti da una dotazione di 50 milioni di euro. I paesi selezionati sono Haiti, Giamaica, Grenada, Belize, Guyana e Trinidad e Tobago. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo domani con una nuova raffica di notizie. Se volete sostenerci, radiobullets.com/sostienici. Buon proseguimento di ascolto e naturalmente di giornata. Evidentemente non si è ancora spenta l'eco delle grandi manifestazioni per il clima promosse dai ragazzi nella giornata del fine settimana scorso, e allora torniamo sull'argomento sentendo un'altra voce, un'altra piazza, con la voce di Vincenzo Mautone del nodo napoletano di Friday for Future, proprio di Napoli. Ascoltiamo. Parto col dire che la partecipazione prevista era molto molto alta, infatti le aspettative sono diventate pienamente realtà. Anzi, a essere sincero, abbiamo anche superato quelle che erano le aspettative già abbastanza particolari. Noi pensavamo che ci fossero minimo 50-60.000 persone, invece ne siamo stati 150.000, quasi effettivi, perché concretamente c'è stata una partecipazione incredibile da parte di flotte di istituti, dell'Università Federico II, comunque ha sospeso le lezioni. C'è stato anche l'appello, diciamo, del Ministro dell'Istruzione, che è stato ascoltato, e tutte queste cose hanno fatto sì che scendessero in piazza tantissimi e tantissimi giovani e anche meno giovani. E il corteo c'è stato alle ore 9, si è iniziato a, diciamo, ad arrivare le persone, abbiamo iniziato a tra virgolette sistemare quelle che erano i vari collettivi, scuole eccetera eccetera, durante, diciamo, nel corteo, e verso le 10:30 siamo effettivamente partiti, perché appunto è arrivata così tanta gente che non potevamo partire prima delle 9, sia per aspettare appunto nuovi arrivati, ma pure per questioni di ordine pubblico anche. E è stato un corteo molto molto molto rumoroso in senso positivo, che c'erano anche un po' di strumenti musicali, è stato un corteo molto colorato, ma un corteo soprattutto partecipatissimo e conscio di quello che veniva rivendicato, perché molto banalmente, il nostro pensiero come movimento internazionale è quello di, diciamo, il nostro slogan è pensare globale e agire locale, quindi oltre, diciamo, alle rivendicazioni nazionali e internazionali che abbiamo portato in piazza, come ad esempio arrivare a una decarbonizzazione totale entro il 2030 per l'Italia e il 2050 per il resto del mondo, e richiediamo anche un taglio a quelli che sono i sussidi fossili, abbiamo anche rivendicato quelle che sono, abbiamo messo in evidenza più che altro quelle che sono le problematiche che affliggono purtroppo la Campania, la nostra terra martoriata, che sono banalmente rifiuti, roghi tossici, varie devastazioni ambientali che continuano imperterrite a essere presenti nei nostri territori ormai da decenni, e che purtroppo le politiche regionali sono risultate molto fallimentari a riguardo. Quindi, diciamo, è stata una piazza che ha preso le rivendicazioni di tutta la regione, e queste rivendicazioni sono state espresse appunto tramite cori, tantissimi striscioni, cartelloni. Comunque la cosa molto particolare è che anche piccolissimi erano consci di non proprio tutto, ma anche di una minima parte di quello che si andava a rivendicare. Infatti si vedevano appunto bambini con cartelloni e mascherine che stavano, diciamo, a denunciare quelli che erano appunto i roghi, che purtroppo queste realtà provinciali, ma non solo provinciali, vivono tutti i giorni le esperienze di roghi tossici, che all'improvviso si viene costretti a chiudere le finestre perché l'aria diventa irrespirabile, gli occhi iniziano a lacrimare. Quindi è stato, diciamo, bello da un lato, ma molto molto brutto in realtà, che ha fatto capire che anche i piccolissimi si sono resi conto della situazione e che vivono purtroppo questa situazione. E diciamo, tutte queste rivendicazioni continueremo a portare in piazza fino a quando non verranno attuate delle vere e proprie politiche concrete ed efficienti. E questo corteo era solo un assaggio di tutte quelle iniziative a cui andremo incontro, come ad esempio la scuola di attivismo che si terrà a Napoli dal 2 al 4 ottobre, e l'Assemblea nazionale costituente di Fridays for Future Italia che si terrà dal 5 al 6 ottobre. Quindi dal 2 al 6 ci saranno vari eventi, tutti firmati, diciamo, a titolo di Fridays for Future, che prenderanno parte appunto a Napoli. E inoltre il 7 ci sarà anche la ribellione internazionale del movimento Extinction Rebellion, che, diciamo, sono i nostri fratelli perché hanno sempre supportato le nostre iniziative e noi comunque supportiamo le loro, quindi anche lì saremo presenti. Prima, Vincenzo, quando hai iniziato a raccontare di come è partito il corteo, hai accennato che avete aspettato anche collettivi. Ecco, quindi volevo chiederti, è stata una piazza, quella napoletana, aperta a tante realtà? Sì, sì, ma la nostra piazza è sempre stata apertissima a tutti e tutte. L'importante appunto è che non avvengano discriminazioni o comunque cose di questo tipo. Quindi diciamo le uniche precauzioni che prendiamo, diciamo, gli unici obblighi che mettiamo è appunto di evitare discriminazioni, di sporcare eccetera eccetera, ma se uno si attiene a queste tra virgolette normative può tranquillamente partecipare a quello che è il corteo. E infatti, così come negli altri cortei, questo era veramente, ma veramente veramente pieno di studenti e studentesse, ma anche di soprattutto lavoratori e lavoratrici che grazie agli scioperi indetti dai sindacati sono riusciti finalmente a partecipare molto più tranquillamente appunto agli scioperi, perché banalmente il clima, il cambiamento climatico va anche e soprattutto a, diciamo, è un qualcosa che colpisce anche i lavoratori e le lavoratrici, non che solo noi giovani studenti, studentesse. È stato pure molto bello vedere i non giovani a fianco in piazza. Un'ultima domanda che volevo porti: le scuole, gli istituti nella loro dimensione istituzionale, con le loro dirigenze e il corpo docente, come si sono rapportati alla manifestazione? L'hanno sostenuta apertamente? L'hanno comunque agevolata? L'hanno pure contrastata o ignorata? No, allora, da parte degli istituti scolastici, sia medi che liceali, ma anche universitari, c'è stato un vero e proprio supporto totale. Infatti abbiamo avuto tantissima partecipazione da parte di professori, presidi, che molto banalmente c'erano scolaresche accompagnate dagli stessi professori. Quindi oltre ad avere un supporto di questo tipo, abbiamo avuto anche molti istituti che hanno totalmente sospeso quelle che erano le attività per quel giorno, per permettere appunto agli studenti e alle studentesse di scendere banalmente in piazza. Quindi c'è stato un vero e proprio grandissimo supporto da parte dei professori, e in realtà l'abbiamo sempre avuto, non è una novità, però questa volta si è veramente vista la differenza, perché appunto tramite le varie iniziative del ministro dell'istruzione, che comunque ci tengo a ribadire con l'autorizzazione tra virgolette che ha dato, non è che è stata questo appello del ministro a convincere i professori a scendere, ma più che altro i sindacati che hanno permesso appunto di non perdere banalmente soldi dallo stipendio, e quindi è stato molto più propenso scendere in piazza. A man lives at the corner of the street, and his neighbors think he's helpful and he's sweet, 'cause he never swears and he always shakes you by the hand, but no one knows he really is a plastic man. Plastic legs that reach up to his plastic bum. Plastic man got no brain, plastic man don't feel no pain, plastic people look the same. Yeah, yeah, yeah. Kick his shin, now tread on his face, pull his nose all over the place, he can't disfigure or disgrace. Plastic. Plastic food with a plastic knife and fork. They like plastic cups and saucers, 'cause they never rain. And he likes to lick his gravy off a plastic plate. Plastic man, got no brain. Plastic man, don't feel no pain. Plastic people look the same. Yeah, yeah, yeah. Kick his shin, now tread on his face. Nouns all over the place. You got this bigger, a disgrace. Last day. Got a plastic wife who wears there's a plastic match. Yeah, it's plastic match. And his children wanna be plastic like their dad. Yeah, it's plastic match. Got a phone and smile that makes you think he understands, but no one ever gets the truth from plastic man. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. 9:33 minuti di questo 30 settembre, ultima giornata di questo mese che ci introduce poi in ottobre, un tempo naturalmente che è assolato con aria terza davvero bella, ma naturalmente l'altra faccia della medaglia è il riscaldamento climatico. Già sappiamo questa vicenda, anche perché siamo reduci da un weekend con grandi manifestazioni dei ragazzi su questo tema e anche la reazione della controparte. La controparte schiera i suoi cannoni di Navarone, ovvero sia quei due o tre fisici, chimici e scienziati contrari alla tesi del riscaldamento climatico, che servono per dire che la comunità scientifica è divisa. Da una parte c'è il 98% degli scienziati, poi ce ne sono due dall'altra parte, che si chiamano in Italia Zichichi e Battaglia. Sempre solo loro, e oggi non è Battaglia, che ieri, che sabato era dalla Lilli Gruber, oggi invece Zichichi, lo scienziato, quello che ci diceva che il nucleare era sicuro, perché ogni tanto conviene fare anche un po' di così di curriculum di questa gente. Allora, oggi invece Antonino Zichichi: cara Greta, studio, inquinamenti e clima sono cose diverse, ci dice il saggio. L'importanza dei dati scientifici. Il finimondo culturale scatenato dal giovane svedese Greta Thunberg ci porta a ricordare che le tre grandi conquiste del linguaggio, della ragione, sono il linguaggio, la logica e la scienza. E avanti così, con tanta retorica che troviamo sul giornale. Naturalmente non sopportano questi signori professoroni che una ragazzina di 16-17 anni gli dia dell'asino, tanto per dirla alla bolognese, e allora sono ancora più avvelenati. Cara Greta, meglio studiare se puoi vincere sul clima. Per comprendere il fenomeno non servono equazioni matematiche complesse, non abbandoni la scuola. Naturalmente questo è, qui se va a scuola poi il mondo finisce, tutti più felici. Attribuire attività umane sul riscaldamento globale è senza fondamento scientifico, dice questo signore che ripete le tesi anche di Battaglia, appunto espresse dalla mezz'ora Lilli Gruber, secondo cui ci sarebbe un problema nel 2050 il riscaldamento climatico, non un problema oggi, perché le alluvioni, tutti i disastri, i ghiacciai si sciolgono, sono un problema del futuro, e quindi è una discussione se c'è o non c'è. Si nega l'evidente, ma evidentemente da una parte c'è una forza di estrema destra che parte da Trump e arriva fino al giornale Zichichi, che vuole più macchine, più smog, più autostrade, più tutto possibile immaginabile senza pensare a un domani, ma c'è anche un elemento di corporation economiche dietro questa riscossa del partito del no non riscaldamento globale. Perché leggo, per esempio, 2020 multi in arrivo, ecco il piano antistangata dal Fatto Quotidiano con Gianluigi Giannetti. Dunque il mercato rischia il tracollo per via delle norme che riducono le emissioni sporche, e si va allora a qualche confidenza via telefonino tra manager. Che dal 1 gennaio, racconta l'articolo del Fatto Quotidiano, prossimo, ogni gruppo dovrà avere una media di emissioni di tutte le auto dei propri marchi pari a 95 kg chilometro di CO2. La multa prevista per chi sfora di 95 euro per un grammo per CO2, oltre il limite moltiplicato per il numero di auto vendute. Solo nel 2020 il 5% dei veicoli più inquinanti non sarà conteggiato, ma lo smottamento è tale da stravolgere le previsioni italiane di vendite già assestate per 2019 a quota 1,9 milioni. Quindi c'è un problema certamente di politica, ma c'è un problema anche molto molto concreto di economia e di chi e di quale economia e di quale conosua. Ma nel frattempo, mentre si discute tra l'economia e l'econosua, il cambiamento climatico è già in atto, fino a prova al contrario, e allora una natura violentata ancora dal Fatto Quotidiano con Elisabetta Ambrosi: clima, spariranno caffè e cioccolato. Che non è solo un problema di andare al bar la mattina, evidentemente, che già sarebbe grave. La domanda di cereali sarà del 33 3% per l'aumento della popolazione, da molte culture come i cereali si ridurranno e i prezzi cresceranno del 23%. Ora, al di là di queste cifre drammatiche per l'economia, quindi non sono solo le auto che producono automobili, le case che producono solo automobili, ma c'è evidentemente un problema poi di drammi sociali di massa, con migrazioni enormi, gente e poi ci si lamenta porti chiusi, sempre la stessa gente che dice non esiste riscaldamento climatico. E allora povero pianeta, dice il Fatto Quotidiano. Sono 12 gli alimenti in serio pericolo, tra cui soia, banane, uva e ceci. Nei prossimi anni a diminuire saranno i cibi che richiedono ambienti particolari d'acqua. Ieri dal manifesto si ricordava che se a fine secolo finiscono i ghiacciai, finisce anche la Valpadana, perché la Via Pedante di Culture e la sua ricchezza anche industriale è legata alla grande vivacità delle fonti acquifere. Ma naturalmente chi se ne frega, dicono i grandi scienziati come Zichichi e Battaglia, che hanno molto studiato. Il Giardino dell'Edel invece parla di Norvegia, la biodiversità, congelato, qui vengono conservati i semi, un vero bunker nell'isola di Svalbard a 1200 km da Polo. E quindi qualcosa c'è, è più che qualcosa, sta già muovendo in quella direzione, a dispetto dei catastrofisti all'incontrario. Nel frattempo, visto che parliamo di questioni che legate alla natura, il corteo a Milano viene segnalato invece da Il Corriere, gli animalisti in piazza, meno tasse su cani e gatti. Sì, io mi collego a Repubblica. Prima saluto e do il bentornato ad Alfredo Pasquali in redazione. Facciamo votare i ragazzi di Greta. Questa è la impaginazione principale per Repubblica e mi mette così mi porta una riflessione, nel senso che c'è una mancanza o c'è un equilibrio per quanto riguarda le visibilità sulle prime pagine dei quotidiani, e incredibilmente poi si trovano anche diverse sensazioni e risultati di cui vi parleremo. Indubbiamente la presenza di giovani che hanno una sensibilità per il pianeta, che hanno una sensibilità e certamente anche, e perché no, e grazie al cielo e meno male, anche ingenuità, che bisogna ricordare perché si sa è abbastanza conseguenziale, però c'è l'entusiasmo, c'è la forza, ci sono i sani principi, e questo è quello che di più giusto si possa citare. Li vediamo qui in fotografia alla protesta in centropagina Friday for Future, e l'intervista Enrico Letta è anche a sua volta carica quanto mai di entusiasmo. Si vede che l'entusiasmo dei giovani è contagioso. Alle urne a 16 anni sui diritti il PD deve imporsi. Certo, questo e tanto altro, ma quello che è ancora più importante è il contenuto, è quello che si è riusciti a smuovere, quello che troveremo anche da quello che è successo in Austria, fra l'altro, e tanti altri segnali, tante altre sensazioni, insomma, che abbiamo improvvisamente vissuto in questi giorni. Ma tornando coi piedi per terra, perché i sogni, come si sa, hai un bel da stringere l'immagine del sogno, ma ti sveglierai sempre col cuscino tra le braccia. Quindi torniamo a vedere la realtà. Rifiuti, a proposito di clima, ecologia, ambiente, come trattiamo l'ambiente. Ecco chi si arricchisce con l'emergenza. Diceva a tutti i sindaci: lei ha tanti problemi, se lascia la discarica aperta le assicuro che per i suoi 5 anni non se ne dovrà occupare. Lo disse anche Ignazio Marino, che ha riferito al Commissione parlamentare d'inchiesta. Siamo a pagina 21, le immagini sono agghiaccianti nella fotografia, che è proprio una penisola di discariche pubbliche che si inceppano, mentre quelle private ottengono facilmente dai politici il via libera a nuovi ampliamenti. Il business dell'immondizia in Italia vale 20 miliardi ed è in mano a società controllate da poche famiglie che prosperano quando scoppia l'allarme. È l'inchiesta, pagina 21 di Repubblica, che viene portato da Sergio Rizzo. I numeri, tesori nei cassonetti, allora: 28 miliardi il giro d'affari, il valore dello smaltimento dei rifiuti in Italia, finanziato totalmente da soldi pubblici, le tasse di scopo, i fondi nazionali e soprattutto quelli locali, ma sempre più in mano a società private di raccolta e smaltimento e proprietari delle discariche. 100 milioni la discarica della Capitale, quando era attiva il sito di Malagrotta, la società Mallio Cerroni, non è un nome nuovo questo, riceveva 100 milioni l'anno dal Comune di Roma. Anche ora, con la discarica chiuso il gruppo Cerroni, conta più di 131 tra aziende e società collegate, quindi un vero e proprio business per una situazione in cui bisognerebbe avere un aspetto specchiato e di controllo assoluto, perché saremmo leggerissimamente in emergenza.

fa la differenza. Su questo fronte l'Unione Europea stessa ha detto: noi non abbiamo risorse finanziarie sufficienti a varare un piano reale di decarbonizzazione dell'economia, ci serve un'alleanza strategica con i settori privati, perché dobbiamo convincere i settori privati a collaborare con noi per il raggiungimento degli obiettivi verdi. La tassonomia, questa regola, diciamo, per dare il bollino verde, è un passaggio fondamentale per il coinvolgimento dei privati. È chiaro che in questo confronto tra l'aspirazione pubblica dell'Europa a ridurre l'impatto ambientale e gli interessi dei privati a poter ottenere il bollino verde in modo da catalizzare su di sé gli investimenti, si crea una grossa frizione, insomma. Tutti vorrebbero avere il bollino verde, il rischio che lo abbia anche chi in realtà non lo merita o fa il cosiddetto greenwashing, cioè presenta le sue attività come attività verdi quando in realtà di verde non hanno niente. È una discussione molto forte. Io credo che la posizione del Parlamento Europeo sia la posizione più corretta, che non ci sia tempo per discutere e per rimettere in movimento tutta la trattativa, e quindi mi auguro che tutta la società civile nei prossimi mesi, su questo che sembra un tema molto tecnico ma in realtà è un argomento molto concreto, faccia sentire la sua voce per rafforzare la necessità di portare il più la svelta possibile a casa il risultato di avere delle regole strette e valide per tutti sulle attività finanziarie verdi. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E dunque siamo alla pagina del lavoro, in quello che il Fatto Quotidiano definisce welfare sostenibile, con Natascia Ronchetti. Sì, si parla molto del governo, dei vari governi che succedono, di investire sul lavoro. Belle parole, vedremo i fatti, anche perché i fatti necessiterebbero un'accelerazione. Leggo per esempio sul versante dell'altra metà del cielo, delle donne. Mamme al lavoro, l'incubo italiano. Dunque, sempre più donne costrette, ed è un focus del lunedì del Fatto Quotidiano, sempre più donne costrette a dimettersi dopo la nascita di un figlio, dal 2011 il più 110%, quindi non è una sorta di così lascito triste del passato, ma invece è un trend drammatico della modernità. Colpa delle carenze nel sistema sociale, delle aziende e della politica. Insomma, si scaricando sulle donne anche il famoso lavoro di cura e togliendo il lavoro, è chiaro che in questo contesto è fatale che sono le donne ad essere condannate ad entrare in casa. La conciliazione tra figli ed anziani, il carico della cura resta sulle donne, conferma anche il Fatto Quotidiano. Vittime anche di un sistema occupazionale paternalista e poco flessibile. Ecco perché Chiara e le altre mollano. Naturalmente tutti dicono bisogna fare imprese per la famiglia, poi quando la famiglia è quella reale in carne ed ossa, guai. Chi abbandona? Il 73% di missionari è donna, 36.000, gli uomini sono 13.500, in vistoso aumento. Ma Susanna Camusso, che viene interpellata dal Fatto Quotidiano anche sul rapporto donne e lavoro, ci racconta che durante i colloqui prevale un maschilismo violento, sì, perché i criteri, i parametri sono tutti in una stessa direzione. Parlando poi di lavoro, il controcorrente del giornale ci dà questi anziani festanti sulla spiaggia come icona, e il titolo è Il paese dei giovani pensionati, Angelo Allegri. Pensionati nonostante la Fornero. L'età di addio al lavoro fissata dalla legge è tra le più alte in Europa, ma l'età effettiva è molto più bassa, perché in Italia c'è sempre una scorciatoia. Quello che viene dipinto è il paese dei furbi, in realtà le scorciatoie sono le varie quota 100 e quant'altro, che vai in pensione, ma ci vai con molto meno rispetto all'Europa. Quindi vecchi e bastonati, ci va più vecchi e con meno soldi. In pensione più tardi, ma prima che all'estero, e questo è discutibile, perché per esempio in Francia si sta discutendo, litigando, se portare la pensione a 62 anni. Noi siamo già a 67 come minimo, a crescere. Già 341.000 le domande di ritiro anticipato nel 2019. In Italia l'età reale dell'addio del lavoro resta tra le più basse in Europa. Sembra il rimpiangere di Angelo Allegri, che ci vorrebbe appunto tutti Matusalemme al lavoro. Sì, infatti a tale proposito l'impiegata quota 135. Vado in ufficio da 60 anni. Non parlatemi di pensione. Sono a pagina 17 della cronaca di Repubblica. Estate 1959, Antonio Segni, il quarto presidente della Repubblica, e qualche mese più tardi Salvatore Quasimodo si aggiudicherà il premio Nobel per la letteratura. Anna Rosa Pavan è una ragazzina di 14 anni, fresca di avvicinamento professionale. Un giorno arriva la bidella dalla scuola e a casa parla con la madre. La dice che l'Agenzia delle Assicurazioni Generali cerca personale. E così ha cominciato, e così, voglio dire, ho capito, anzi, onore al merito, ci mancherebbe, però non è che queste quote o questo allungamento o una situazione quanto mai confusa o mai un ricambio e un'esaltazione invece per chi, con onore al merito, ci mancherebbe, insomma, riporta queste cifre, questi numeri che tra lavoro e pensioni diventano veramente qualcosa di più da Guinness dei primati, e da una situazione di un singolo e di tante persone invece, cioè questa che viene riportata non è la normalità, ecco quello che voglio dire, è più un caso particolare, il mondo del lavoro è altro. E poi il re dei sommelier, sempre a pagina della cronaca di Repubblica, Pinchiori sotto accusa per stalking. L'ex dipendente, si parla di donne, la lavoratrice che lavorava sempre per questa ditta, dice: io non vivo più appostamenti, messaggi insistenti. Il titolare dell'Eroteco Fiorentina 3 stelle Michelin, denunciato giustamente dalla donna. Lei è una donna giovane, da 5 anni sono la sua ossessione. Ignorata la diffida del questore, la procura chiude addirittura le indagini, insomma. Ora però vengono riaperte, si rischia il processo. Giorgio Pinchiori, 75 anni, è un celebre imprenditore, è l'uomo self-made man, imprenditore della ristorazione stellata, è accusato da una sua allieva ex dipendente di stalking. Ecco, di lavoro, vedete, quello che dico con tristezza è che sono molto più presenti queste situazioni qui. La difesa, secondo l'avvocata che difende Pinchiori, l'ex dipendente se ne sarebbe andata perché non andava d'accordo con gli altri, e lui amareggiato diceva: ma sono tutte cose poi che passano. Sì, e poi continuava a telefonarle, continuava a stargli dietro, continuava, insomma, a rompere le scatole in maniera troppo pesante. Questa notizia viene riportata anche a pagina 12 dalla Stampa, dalla quale rimango per parlare di lavoro, tra virgolette, di una manutenzione che in Italia non c'entra niente. Qual è il collegamento, ormai dimenticata proprio una roba, che qual è il collegamento con le donne? È perché questo sventurato vedovo: non mi lasciano portare fiori a mia moglie, morta 2 anni fa. Borgoretto, periferia sud di Torino, l'ampliamento del cimitero ha isolato alcuni loculi. La rabbia dei cittadini, assurdo. Il 79enne Bruno Masia protesta sotto il municipio: la tomba della mia povera moglie inaccessibile e i lavori vanno avanti da 8 anni. La risposta: trovati i fondi, presti lavori per sistemare tutta la situazione. E la denuncia, insomma, è che dobbiamo rendere omaggio alla spoglia mortale guardando delle lapide sbattute lì per terra. Una situazione quanto mai così di degrado e di poca memoria. Naturalmente, parlando di lavoro, viene da parlare anche della manovra. Siamo alla stretta finale, ci sono diverse linee di tendenza nel governo cosiddetto giallo-rosso che vengono segnalate dai giornali. E il Corriere della Sera, per esempio, titola questa mattina: manovra e lite tra gli alleati. Vertice notturno a Palazzo Chigi, e un vertice notturno che troviamo la notizia non ha avuto un risultato positivo. Dopo 4 ore di verifica a Palazzo Chigi, niente intesa sul documento di economico e finanziario, che è l'antefatto, il fatto della manovra di bilancio. Di Maio, in finanziaria e salario minimo, Franceschini parla solo per i 5 Stelle. Quindi, naturalmente, ogni volta si va alla manovra, ognuno vuole metterci il suo tema, a cui si aggiungono abbondantemente tutte le questioni clientele e sotto clientele, e va da sé che l'elemento che più fa parlare è quello delle tasse, perché si è parlato di un aumento di IVA così selezionato da parte di Ambiente del PD, bocciato sia dai 5 Stelle che dall'EU che da più Viva l'Italia, Italia Viva di Renzi, e subito che viene così cavalcato dai giornali della destra, che titolano questa caratteri cubitali questa mattina, per esempio La Verità: erano tutte balle, l'IVA aumenta e ci costerà 5 miliardi. E ancora il giornale a centropagina: arriva una valanga di tasse, ancora non sa quale sia la manovra, però il copione è prevedibile. La maggioranza che dice: ma quali tasse, ma quando mai? Mentre l'opposizione: ah, ci rovineranno con le tasse, prima ancora di sapere come sono le cose. Manovra: non ci sono i soldi, Gualtieri accusa Salvini. È evidente che ogni governo accusa il governo precedente dell'ascito, ma si sarebbe, sapeva già l'anno scorso che quest'anno i famosi 23 miliardi per i rialzi dell'IVA sarebbero stati una cosa dura da risolvere. Il tempo di Roma, che ipocriti, ora aumentano le tasse, questo giornale della destra, mentre i giornali, così diciamo, del grande centro parlano dello scontro nel governo, aumenti IVA, scontro nel governo, come già dicevamo, leggevamo dalla pagina del Corriere, che aggiunge nelle pagine interne: tensioni nel governo sul fisco, il premier convoca i leader, vertice intorno a Palazzo Chigi, salario minimo, le condizioni di Di Maio. Certo è che se questo governo non farà delle iniziative anche eclatanti per dimostrare un cambio di segno e una gestione popolare del potere, se si limiterà un'amministrazione per fare alla fine un quadrare le casse, non ha chance di poter durare, nemmeno di poter battere il centrodestra, che è sempre più naturalmente sguaiatamente popolar populista. Mentre i scenari economici, le trattative vedono il piano di Gualtieri: prendici 30 miliardi e il conto di Papete. Anche qua si va sul appunto, un po' volano gli stracci, quell'altro gli replicava: no, dà la colpa a Gentiloni. Insomma, non è che questo cambi molto. E subito Gian Maria De Francesco nell'analisi dal giornale: una manovra da salasso con l'aumento dell'IVA, il bluff del cuneo fiscale, il ritocco selettivo dell'imposta peserà su 12 miliardi, scura anche sulla detrazione. Su questo il ritocco selettivo dell'IVA, ovvero sia aumentare l'IVA nei alcuni beni considerati di lusso, abbiamo invece l'affossamento della maggioranza, scusatemi il bisticcio, perché in retroscena di Lorenzo Selvia: se sale l'IVA votiamo contro, l'ultimatum dei renziani, rinviamo piuttosto il cuneo fiscale. L'asse con i 5 Stelle: il PD insiste, più soldi per i redditi medio-bassi, e per Conte torna l'incubo della mediazione. Questo è tasse in busta paga, l'ipotesi di riduzione, autonomia, la flat tax non sarà estesa, ci mancherebbe solo quello, ma in un momento di piatto che piange. Ma visto che tutti dicono piatto piange, colpa tua, colpa sua, colpa mia, no, colpa di quell'altro, Contropiano, giornale comunista online, ci racconta come spendiamo i soldi, perché è interessante. Allora, l'Italia si allinea al via il vero esercito europeo. Dunque, c'è la firma del nuovo ministro della difesa, Lorenzo Guerini, sotto la lettera in cui l'Italia ha comunicato ufficialmente alla Francia la volontà di aderire all'European Intervention Initiative, messa in atto implicitamente 2 anni fa dal Macron e costruita a Parigi il 25 luglio 2018. Quindi, vorrei ricordare che questo esercito europeo di intervento non è alternativa alla NATO. Non è nemmeno alternativa all'esercito nazionale. Quindi paghiamo un esercito della NATO, un esercito nazionale, un esercito europeo. Insomma, questi sono i soldi che nessuno, ma proprio nessuno, mette in discussione. Sì, sono i titoli principali anche di quotidiani da me selezionati. Ricordo che non c'è il manifesto nella formazione tipica. La Repubblica, come già ho anticipato, oltre a invitare un anticipo di voto per i ragazzi di Greta, continua: Di Maio frena sulla cittadinanza ai nuovi italiani e aumento dell'IVA, vertice notturno della maggioranza. Questo è il titolo, come ad esempio porta il resto del Carlino: aumento dell'IVA. L'IVA, Renzi dice no, Renzi e Di Maio, l'IVA non si tocca. E si prosegue, restando appunto sullo sguardo trovato a pagina 6 dalla Repubblica, da cui son partito: già rischia la revisione IVA, servono tagli alla spesa per sanità e famiglia. E da qui si va poi avanti con le diatribe e chi più ne ha più ne metta, perché sono argomentazioni che in una situazione quanto mai disomogenea possono diventare problematiche concrete, lo sono già. Manovra 30 miliardi, Conte deve mediare su salari e tasse, vertice in serata a Palazzo Chigi, tensione Di Maio Franceschini, Gualtieri, torno al discorso precedente, quota 100 resta, sulle pensioni non è serio cambiare. Attenzione, con i rapporti in Europa parla Draghi, gli stati spendono di più, ora unione fiscale, parla Mario Draghi, parla al Financial Times in una delle sue ultime interviste da presidente della BCE e punta a una riforma fiscale dell'Eurozona che la renda capace di competere in un mondo sempre più globalizzato. Quando si parla di competizione in mondo globalizzato e di uscire dalla morsa di potenze come Cina e Stati Uniti, Draghi chiede agli stati di investire di più per contrastare il rallentamento dell'economia e sottolinea che l'unione fiscale, cioè un coordinamento anche della fiscalità dei paesi membri, è più urgente che mai. Quando si parla di essere più competitivi e di aiutare gli stati a far esborsi economici non significa che siano esborsi economici, non so, per del taglio fiscale alle imprese o regalie per i grandi nomi, insomma non dovrebbe essere questo. Ah, ma dopo a cascata poi c'è più lavoro, non ha funzionato così finora, insomma. Quindi lascio Repubblica, alto la di Renzi a Conte, l'IVA non si tocca, aumentarle è un regalo a Salvini, ieri sera vertice di governo, e la lite di Maio Franceschini. Parla anche la Bellanova al tavolo, la prima volta di Italia Viva rappresentata dalla ministra nell'incontro di maggioranza. E concludo con La Stampa, che anche a sua volta il quotidiano torinese mette le argomentazioni in prima pagina. Renzi e Di Maio, l'IVA non si tocca, Movimento 5 Stelle e Italia Viva compatti sul no degli aumenti selettivi, Marattin, questo governo è nato per evitarli. La nota di aggiornamento nel documento di economia e finanza in CDM, tra le polemiche, il PD in tutto ciò resta isolato. Sta di fatto che poi l'Italia rimane comunque un vaso di croci in mezzo a vasi di acciaio. Tutte queste operazioni di IVA contro IVA, selettiva o non selettiva, rischiano di sgretolarsi di fronte ai dazi di Trump, che in un colpo solo fa strage delle polemiche. E allora Pompeo, Mike Pompeo, il segretario di Stato americano, sbarca in Italia, braccio di ferro sui dazi dell'Unione Europea. Cosa, i dati di Trump, questo nostro caro amico, amico di Conte, amico di Salvini, amico di tutti meno che gli italiani, perché è un attacco al Made in Italy. Questa cosa viene denunciata sia prima da Conte, poi anche da Salvini, alla Confdiretti. Tutti applaudono la difesa del Made in Italy, ma naturalmente con un parmigiano che da 2 euro passa a 70 euro al 20 in America, difficilmente potrà essersi export. L'attacco al Made in Italy, l'export agroalimentare verso gli USA vale 4 miliardi di euro, nel mirino prodotti come vino, pasta e formaggi, il 5% della produzione di parmigiano va oltre oceano. Appunto, parmigiano fino a 20 euro al chilo in più. Questo mentre per vini spumanti con costi maggiori tra i 5 e 14 centi per bottiglia, le industrie automotive si temono contraccolpi. Questo è l'amico americano, come si dice alla faccia, meglio i nemici a questo punto. Parlavi dello Ius Soli. Beh, abbiamo non solo il 5 Stelle, ma la Morani, che è un PD, dice non è il momento. Perché non dice non è giusto, anzi dice giusto. Ma non facciamolo adesso, perché è un regalo a Salvini. Questo è il ragionamento. Naturalmente su questo Salvini ci marcia, va da sé. Facendo eco a quanto dice Di Maio. La deputata adesso sarebbe in un errore, meglio farla a giugno, quindi dopo le regionali, che non credo che cambi molto i contesti, le rabbie della Meloni. Forza Italia, cittadinanza non si regala. Perché sembra che regaliamo tutto a tutti, no? Uno nasce in Italia, studia in Italia come prevede la proposta di cui abbiamo letto le ipotesi, è regalato. Quindi francamente di regalo abbiamo i Dem scimmiottano i 5 Stelle, multe chi lascia, Renzi in arrivo altri 10 parlamentari. Giusto versare un risarcimento al partito, dice il commissario Walter Verini. Chi la proposta è un renziano della prima ora. Questo è anche il Fatto Quotidiano, dice multe a Umbro chi imita i 5 Stelle, multe il PD Umbro, scusate, imita i 5 Stelle, multe chi cambia partito. Nervi e proposte, Orfini dice Zingaretti intervenga, ma i 5 Stelle chiede norme contro i trasformismi. Questo è il quadro che, a parte il fatto che credo che sia impossibile chiederle multe perché i finanziamenti dello Stato al deputato, al senatore sono assolutamente personali, non vincolati al partito, quindi non c'è cosa che possa valere, però di fatto questo è la simbologia del guai che gli cambia casacca. Detto questo, naturalmente Libero invece torna sul denaro, usarle costa più del contante, carte di credito che fregatura, stanno diventando un lusso, il canone anno sale del 76%, e come già notava stamattina Willy, giusto la tracciabilità elettronica del contante, però bisogna togliere le commissioni alle banche, anche perché non si capisce quale sia la fatica, il servizio che offrono le banche quando a livello di algoritmo traducono un soldo da un conto a quell'altro. Comunque loro avrebbe la cosa di base per far questo, per non fare una ruberia di massa e togliere le commissioni alle banche. It's a ring. Torniamo in diretta a 10.08 minuti di questo 30 settembre, ultimo del mese, primo della settimana, lunedì. Esteri, titolo principale per diversi quotidiani, Repubblica e La Stampa. Un giovane leader che viene qua fotografato con sorriso a 36 denti e tanto entusiasmo. Voto in Austria, trionfano Kurz e i Verdi. Crolla l'ultradestra. Mi sono permesso appunto di riportare una sensazione che quando vi è sui quotidiani, alle televisioni, così, visto che adesso la comunicazione è quanto mai diffusa, una sensazione più vicina a un equilibrio fra l'ecologia, l'impegno, le manifestazioni e non solo gli urli da propaganda elettorale sovranisti e populisti e chi più ne ha più ne metta con gli isti, abbiamo un diciamo, non dico risultato, però vi è qualcosa che non è Orbán, qualcosa che non è Salvini, qualcosa che non sono i soliti noti di Visegrad anche, che sembravano veramente dominanti dalle prime pagine e non solo, e su questo fuoco su fuoco poi un incendio in un attimo. La cosa si è equilibrata anche grazie ai ragazzi, le manifestazioni, l'impegno, le argomentazioni, chi più ne ha più ne metta. Kurz spegne l'ultradestra, il giovane leader dei popolari trionfa al 38%, crollano gli estremisti, successo dei Verdi. E qui, messo a fianco, facciamo votare i ragazzi di Greta e l'entusiasmo di Enrico Letta, seppur molto onirico, però insomma qualcosina deve esserci, no? Renzi e Di Maio sono il titolo principale per La Stampa, mentre Kurz e i Verdi sono la fotografia per il crollo dell'ultradestra, con approfondimento a pagina 25 per iniziare la nostra rassegna che riguarda anche oltre confine. Da La Repubblica invece il leader popolare stravince il voto in Austria, crolla l'estrema destra, boom dei Verdi. I socialdemocratici al minimo storico, questo conferma un po' quello che spesso diciamo anche, no? Di come quella finta socialdemocrazia che ormai ha solamente il nome di questa corrente di Renzi, di Macron, dei nomi che hanno veramente portato non bene alla democrazia, ecco, abbiamo sempre criticato, e si confermano i principali protagonisti di questa sensazione negativa. Presenti da sempre i socialdemocratici in Austria, sono al minimo storico. L'articolo parte da Vienna, dall'inviata di Repubblica, e appunto conferma l'ultradestra FPÖ è stata bocciata dagli austriaci. È il partito di Hofer che crolla al 16%, che è un... È una quantità, perde però 10 punti rispetto alle ultime elezioni per il rinnovo del Nationalrat, il Parlamento, travolto in maggio dall'Ibiza Gate tra l'ex leader Heinz Christian Strache. È stato accusato di aver speso soldi dal partito in modo legale. Ieri due massimi pesi, come il capogruppo al Parlamento Wilinski e l'ex ministro dell'interno Kickl, hanno escluso una riedizione dell'esecutivo con Kurz, insomma, e adesso si vedrà il proseguire di tutto ciò. La presenza anche dei Verdi, il boom dei Verdi, la sensibilità che ha colpito e ha dato questo risultato. A pagina 10, sempre su Repubblica, andiamo dall'altra parte del mondo, la morsa di Pechino su Hong Kong per i 70 anni della Cina comunista. Nel giorno più duro di battaglia nelle strade, la repressione del governo è stata giornata durissima, arrestati persino gli anziani, ma è per domani che si prevede la grande mobilitazione dei ragazzi, proprio mentre il regime celebra la ricorrenza. Si parlava di questo, fra l'altro, anche durante il brano Money degli ABBA. Andiamo invece ne urla nel silenzio del mondo, inchiesta del Fatto Quotidiano con Rachida, Elsa Zusi, Massette Bavagli, ecco perché l'Egitto è in rivolta. Anche qui si parla di repressione, migliaia di arresti, accuse di tortura, il popolo ridotto alla fame insorge contro il presidente Al-Sisi e il governo di militari corrotto, la Francia vende armi, ma l'Europa tace. Questo è il quadro. Il giornale poi ci dà questo scoop, e speriamo che sia non vero. È possibile che sia vero, ma le fonti sono quanto mai ambigue, e speriamo, dunque, culiamoci nell'illusione che non sia vero, perché se fosse vero sarebbe una tragedia. Un'esclusiva: la rapita italiana costretta, c'è Silvia Romano, al matrimonio islamico. Silvia Romano, sequestrata in Kenya nel 2018, ancora in prigioniera, obbligata alla conversione dai suoi aguzzini. Luca Fazzo, che appunto cita fonti dell'intelligence, quindi francamente è poco corroborato da prove provate, speriamo appunto che si sbagli. Il premier ungherese Orban, questo è curioso, difenderò io i confini italiani, ma pensa ai fatti tuoi, e invece dice questo signore, caro primo ministro Conte, l'Italia non confina con l'Ungheria, quindi, caro ministro Conte, se necessario siamo disposti ad assumerci noi la protezione di alcune sezioni del confine italiano. Magari Riccione, ci mettono delle barriere degli ungheresi. E quanto ha detto il premier ungherese Orban, secondo l'agenzia De Necronos, in passaggio del suo discorso dopo la reazione al presidente del partito Fidesz, che è l'estrema destra ungherese, magiara. Perché estrema destra, adesso pare tutto, è anche i popolari austriaci. Non è che abbiamo un problema, un partito popolare democratico che ha vinto risucchiando i voti dell'estrema destra, è che l'estrema estrema estrema estrema destra, la casa pound per intenderci dell'Austria, è finita in uno scandalo e molti estremi estremi estremi destri di questi votanti sono stati a Kurz. Questo volto che sembra tratto da un film della notte dei lunghi coltelli. L'Austria incorona Kurz, l'estrema destra decimata, ecco, sembra che i popolari del 37% siano popolari diversi da quelli di Orban, sono uguali. Il grande altro di Verdi in calo i socialdemocratici. Dunque, allora, se Kurz prende dal partito dell'estrema estrema estrema destra, i socialdemocratici perdono in direzione dei Verdi. Sull'estrema estrema estrema destra poi sta ancora per grandinare, secondo meno gli sconfitti del Corriere, a firma di Paolo Valentino, la fine di Lady Strache, che era ex vicepresidente che ha ricanato l'FPO, questo partito di estrema estrema estrema destra. Dunque, la fine di Lady Strache, la moglie che spendi con i soldi del partito, leader FPO, dopo gli scandali una scissione, perché sembra che questa signora stia per abbandonare il partito e farsi gli affari suoi. Tra il fatto che c'è una brutta pesca per nonostante la vittoria per Kurz, perché non ha la maggioranza, deve fare un'alleanza, l'estrema estrema estrema destra non ci sta più, quindi farla con i socialdemocratici, farla con i Verdi, questo sarà da vedere. Dunque, ora però Kurz è chiamata alla prova più difficile, potrebbe rifare una grossa coalition con i socialdemocratici che sono giù ma non fuori, riproponendo l'antico consumato sistema consensuale del Proporz, come suggerisce la vecchia guardia di popolari, cioè il Cencelli austriaco. Quindi si preannuncia un grande giro di valzer, siamo a Vienna, sul quale maggioranza. Thank you. Eccoci qua, su queste note torniamo in diretta, vogliamo così sulla conclusione della cronaca estera per poi atterrare sulla cronaca locale e congedarci da voi. Lima, siamo in Perù, immagini, mamma mia, il muro della vergogna che separa ricchezza e povertà, la recinzione costruita 30 anni fa per bloccare l'assalto dei contadini è diventata la barriera della disuguaglianza. Lo chiamano il muro della vergogna e non riesco a trovare altro termine. Muro della vergogna, 10 km di cemento, alto 2 metri, poi 3, filo spinato, guardie armate, quasi fosse un carcere o un lager. Lo hanno costruito 3 decenni fa, centinaia di operai idili arrivati nottetempo scortati dalla polizia. Lo hanno eretto in una settimana, lo hanno modellato sul disegno delle ondulate colline che desbettano su Lima. Doveva fermare l'immigrazione rurale, impedire che migliaia di poveri contadini in fuga dal terrore di una situazione quanto mai cruenta anche in seguito alle presenze di Sendero Luminoso trovassero una nuova vita ai margini della capitale del Perù. Beh, è stato proprio inclusivo il Perù, però forse era meglio Sendero Luminoso. Oggi, 30 anni dopo, quel muro è il simbolo che divide due pianeti, quello dei poveri, dei paria, dei diseredati, e quello dei milionari potenti e dei privilegiati, quelli che lo stesso Sendero Luminoso magari voleva combattere con dei metodi discutibili, ci mancherebbe. Però in Perù è un argomento quasi tabù. L'Alcalidia di Lima, con la sua storia secolare, il primo sindaco risale al 35, orgoglio del Perù, ora è assente e ormai impotente, come tutti i principi appunto che impugnano ideali di progresso e democrazia. Cronaca locale, col Carlino c'è una controtendenza, la rinascita dei mercati, controtendenza rispetto al nascere continuamente di ipermercati, e francamente ci domandiamo a cosa serva quello del CRB, per esempio, visto che abbiamo vicino quello della Coop e altri, insomma. Vabbè, ma invece la clientela e anche l'organizzazione agroalimentare si organizza in il piccolo, secondo appunto il Carlino, il piano dopo Albani e Piazza Aldrovandi, i lavori in via Vittorio Veneto. Dentro anche 5 agricoltori prosegue il piano del comune per ristrutturare i banchi. Questa zona è morta, dice Zante, che si compiace di questo ritorno dei mercati, profuma di quartiere, dice Andrea. Emanuela dice tutto molto fresco, ci saranno prodotti raccolti 2 ore prima, quindi non che arrivano con un packaging pesantissimo, visto che parliamo anche d'ambiente, magari chissà dove, ma in chilometro zero giù di lì. Paolo Cavalieri, Chiesa Nuova, qui i chioschi funzionano perché sono tradizionali, e Marco Guidi dice una presenza da salvare, e questo negozio di vicinato. Sul piano della politica abbiamo Salvini che blinda la Borgonzola contro le velleità di Forza Italia di mettere un suo adepto alla corsa delle regioni, mentre abbiamo anche la Repubblica Bologna. Sì, assolutamente, Borgonzoni benedetta da Salvini, la candidata è lei, non si discute. L'ex ministro glissa sul caso Bibbiano dopo averlo a lungo cavalcato, perché che schifo, e annuncia una lista per le regionali più inclusiva. Show del leader leghista alla Coldiretti, aspetto i voti in Emilia come se fosse il giorno di Natale. Cioè, esplosa la bolla, hanno fatto tutta sta confusione, il polverazzo per Bibbiano, adesso che hanno capito che è un'altra cosa, adesso ma lo sanno poi loro cosa c'è lì sotto. Ecco, questa è da riunione condominiale, no? Minacce armate al mercato, insulti e poi rissa con coltello alla mano nelle zone di via Belvedere, in manette un 31enne in stato d'ebbrezza, a casa aveva 2 pistole e un fucile a pompa e anche una finta paletta delle forze dell'ordine. È il momento dello sport, la Fortitudo fa la festa ai campioni d'Italia, Alfredo sicuramente più informato di me, ma ancora di più è Stefano Ugolini, che adesso lanciamo. Io, Alfredo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani sempre alla stessa ora, un caro saluto dalla rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Stefano Ugolini. Passaggio vuoto stagionale per il Bologna, che in questo trittico Roma, Genova e Udine prende un punto solo, e quindi diciamo un passaggio vuoto, un problema di testa, un di testa è per i 2 gol presi al 93esimo da Dzeko e ieri al 27 del primo tempo da Okaka. Un Bologna che sicuramente mercoledì Genova meritava la vittoria, ma un errore dal dischetto di Sansone e un errore di Soriano sotto porta non hanno dato il frutto del bottino pieno. Bologna che per tre quarti partita aveva fatto vedere belle cose. Ieri invece Udine e Bologna non c'è mai stato, quindi con la testa non era in campo, e qui le chiavi di lettura sono le più disparate: il fatto di non aver fatto tantissimo turnover, dalle solite amnesie difensive sui cross, nella prima occasione Nestorovski aveva, diciamo così, visto una buona parata di Skorupski, poi dopo un po' l'errore del duo centrale Bani Bensville, un po' la bravura anche di Okaka, ha portato al vantaggio dei Fruilani. Poi nella ripresa del Bologna francamente non è pervenuto, è sembrato molto nervoso e c'è stato probabilmente, a mio avviso, una problematica appunto di continuità, di concentrazione, uno Sfini impalpabile, un Soriano anche lui che poi nel finale ha visto bene di farsi buttare fuori a gara finita. E poi ne pensiamo che in un passaggio vuoto, il primo della stagione, dopo le prime 5 giornate dove c'era grandissima euforia da una parte del pubblico, mentre l'altra si aspettava un'occasione come questa per ritornare al fatto che in difesa non c'è più Janko, come se fosse Beckenbauer, un giocatore insostituibile. Bisogna che deve trovare equilibrio e un pochino più di geometria a centrocampo. L'arrivo a pochi giorni dall'inizio del campionato di Medel, a mio avviso, non ha dato la possibilità di trovare i giusti equilibri, gli giusti spazi nel centrocampo rossoblu, e tre partite in una settimana probabilmente questa squadra ora non riesce ancora a gestire. Tornando appunto, che non è sicuramente una squadra da primi otto posti, ma non è neanche una squadra che a mio avviso dovrà lottare per la salvezza. Cerchiamo di trovare tutti quanti il giusto equilibrio e magari riuscire a giostrare meglio i giocatori, i vari ruoli un po' abbozzati, come quello di Krejci sulla sinistra, probabilmente iniziano a lasciare un po' il tempo che trovano, optare per una prova ambaia su quella fascia, per avere un giocatore che fa le due fasi, sia quelle offensive che quelle difensive. Ovvio che aspettiamo già in settimana qualcuno metterà il dito sul fatto che l'allenatore non è in panchina, quindi si butterà via tutto quanto di bene fatto fino al rigore sbagliato di Sansone a Genoa. Dire che in queste tre gare probabilmente si poteva portare a casa più del punto effettivamente messo in cascina è vero, ma la stagione è ancora molto molto lunga. In attacco il Santander dall'inizio della partita non ha sicuramente fatto vedere una buona prestazione, ma nella ripresa è stata una partita molto sporca, poco giocata, con non dico il pullman dell'Udine parcheggiato davanti alla porta di Musso, ma quasi. Ora domenica arriva Lazio che ha messo 4 gol nella porta del Genoa, quindi una gara sicuramente difficile, con un po' più di tempo per prepararla e per provare tutti quanti a dare il giusto valore a questa stagione, che ripeto non è il terzo posto della terza giornata e non è neanche il terzultimo posto dell'anno scorso fino a gennaio. Troviamo tutti quanti gli equilibri e cercando di considerarsi un po' meno belli e provando ad essere un po' più concreti, magari sbagliando un po' meno rispetto a Genoa e Roma. Ieri onestamente nel secondo tempo non mi ricordo un tiro in porta dei rossoblù. Queste sono situazioni che a un gruppo servono molto per crescere e per impostare meglio una stagione che è lunga ancora e ancora in divenire. Chi ha impostato bene la sua stagione è sicuramente la Fortitudo, che batte i campioni d'Italia di Venezia 89-82, lo fa con una gara praticamente perfetta, se non un piccolo passaggio vuoto nel finale, quando i veneziani tornano a meno due, a poco più di un minuto e mezzo dalla fine, ma lì grande esperienza di Pietro Radori, che va a prendersi un fallo importante per tornare in lunetta e rimettere quasi due possessi contro gli avversari e a portare una vittoria molto importante di una Fortitudo che ha sempre comandato, non soltanto nel punteggio ma nei ritmi. Venezia non è mai sembrata in grado di poter prendere possesso dell'incontro. Una Fortitudo, diciamo, che ha 20 punti da Aradori, 18 da Stevens, che il giocatore è arrivato a gettone per subire Sims. Attenzione, non diamo subito a Stevens il gallone di grande cracker, che è il campionato italiano è pieno di giocatori che la prima giornata, la prima partita fanno impressione, poi un po' si perdono. È stato molto molto funzionale. E Ben Roberts, che è un giocatore interessante, che ha l'istinto e mette canestri importanti, che ne fa 13, e Stipcevic con esperienza, con garra, come dicono in Argentina, è colui che irretisce Watt, che si fa espellere nel finale del primo tempo, mettendo, sparigliando un po' le carte. Diciamo, a mio avviso, anche un ottimo Mancinelli, che nel momento importante trova tre canestri dei suoi con il gancetto di sinistro. Buona prova anche di Fantinelli, che finalmente gioca in Serie A, per me è un giocatore che doveva già giocarci da un paio d'anni, che ha visione, ha fisico, e se riuscirà a mettere anche un pochettino il tiro da fuori, è un giocatore che diventa molto molto interessante anche in chiave nazionale. Ora la Fortitudo è attesa domenica alla trasferta di Varese, una trasferta che è sicuramente storica per la vecchia rivalità contro i Lombardi, ma è anche una partita con una squadra che è in grosse difficoltà e che quindi vorrà vendere caro la pelle all'interno del palazzo di Masnago. È un'altra grande occasione per Fortitudo per rimanere a punteggio pieno, e gli equilibri trovati in questo momento da coach Antimo Martino sono importanti, perché ci si aspettava una Fortitudo in difficoltà fisica, soprattutto in difesa. Al momento la vista contro Venezia non ha dato questa impressione. Vince anche la Virtus, che va a Pistoia, vince 7-8-8-8, lo fa con una gara nel punteggio molto importante dei suoi due pivot. Alla fine Anterne fa 22 partite dalla panchina, 14 Gamble, 15 Richie Gaines e 10 anche di Markovic. Una partita che bianconeri tengono sempre sotto controllo, con una discreta presenza sotto le planche, con 34 rimbalzi e 27 su 40 da 2, con molti canestri da sotto. Il solito buon playmaking di Markovic, che distribuisce assist molto belli, ogni tanto ne forza alcuni dando l'impressione di piacersi un po' troppo. Wims non ha le precedenti della settimana scorsa. Una Virtus che secondo anche coach Giorgiovic ha una buona prestazione da Piola, che sembra più aggressiva, anche se a mio avviso non vede ancora molto il canestro. Una Virtus che mercoledì fa l'esordio a Ulm in Eurocup e che secondo le ultime voci potrebbe avere domenica in campo Teodosic contro Venezia, che ritorna al Palla d'Ossa, una Virtus che è parsa ancora un po' indietro, con alcuni cali fisici e mentali, non ha ancora grandissimo equilibrio, ma sono tutti giocatori nuovi. Ora, il fatto di giocare sempre due volte a settimana non ti dà la possibilità di provare le cose in allenamento, di aggiustarle, e sarà il campo, e qui dovranno essere bravi tutti quanti a mettersi in condizione di limare sempre gli errori e i passaggi a vuoto, che soprattutto per le squadre che hanno giocatori che hanno fatto i mondiali, vedi Venezia, vedi Milano che ieri ha perso in casa con Brescia, faticano ora a trovare certi equilibri, a trovare le giuste soluzioni nei momenti di difficoltà, ma purtroppo gli impegni sono fatti uno dietro l'altro e quindi non si può fare altrimenti che trovare la giusta quadratura del cerchio in allenamento. Quindi una Virtus che vedremo se domenica farà esordire la sua punta di diamante. Sono curioso anche di vederla in Coppa, in un basket molto più fisico. La Virtus quest'anno è molto più grossa rispetto all'anno passato e vediamo se farà meno fatica, come ha fatto quella dell'anno scorso in Coppa, che in campionato. Per questa settimana è tutto, buona giornata.